Però in network. Musica allo stato puro. Ti ripigli. Di sicuro. Sarebbe bello essere nuvole e avere un mondo da inseguire. Fermarsi solo un attimo e se c'è noia scomparire. È il programma col cuore di un bambino. È il cammino di Gigi D'Agostino. Musica più lenta che pace che spera, le voci un po' più lenta, violenta, sincera. Musica più lenta che mace che spera, veloce poi più lenta, violenta, sincera. Chi viaggia poco resterà piccino. Il cammino di Gigi D'Agostino. E chi c'è qua, Gioni Belli e Baldi? E sta? Prova. Buono così. Vai. Senti, ti presento pure un attimo. Eccoci qua, ragazzi. Signore e signori, mettetevi seduti, che è arrivato Gigi D'Agostino. Non è proprio una classifica, sono solo delle scelte momentanee degli ascoltatori. Freschi freschi, galli galli, se bagniamo tutta ralli. Numero 20. Artista. Uomo suola. Titolo. Más fuerte. Una canzone nasce in base a come stai, a dove vai, a cosa sei. Fermiamo un attimo per cambiare rotta. Sinfonico. Questa canzone è questa. Tecno artista. Orchestra maestra. Questo qua, questo brano, questo, come si intitola? Luce. Artista? Dottor Dan. Versione? Spreco Mix. Preciso. Luce che si riproduce, questo è il buio che la conduce, lascia il buio. buio che la conduce, nasce dal buio e ci conduce, sembra banale ma è reale. Ci vediamo tutti a Rimini. Discoteca Altro Mondo. Discoteca Altro Mondo. Alle ore 22.30. Chi suona? Gigi D'Agostino di Campasquetta. Bravo. Siento che sta trasportando. Siento tu voz che mi sta trasportando. Vediamo tutti a Rimini, discoteca Altro Mondo, alle ore 22.30. Ma non suonerò solo io, ci saranno altri ospiti. Dopo di me suonerà DJ Provenzano. Dopo di Gigi D'Agostino suonerà DJ Provenzano, Luca Nois. E poi c'è stato Daniele Mondello. Daniele Mondello. E dopo chiude il locale perché qui... si va alle porte, sì, si va in spiaggia. Dopo si va in spiaggia. L'ultima corriera per andare a casa? Non lo so, qui ve lo diremo lì. Ci vediamo lì. Numero 15. Ma questa canzone è questa. Folclorista. è il titolo di questo brano qui, questo io direbbe spigna spigna, ma si chiama pigia quante volte pigia, ma vai che cazzo. Artista lento violento man. Fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. A uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Fatico molto a passare da una condizione di sonno. Pubblicità. Ta-ta-ta. Pubblicità, tra-ta-ta-ta. Pubblicità, tra-ta-ta-ta. Pubblicità, tra-ta-ta-ta. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Musica, musica. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Numero 12. So many miles of travel around the world, and I didn't know anything I would do. So many miles of think about you in time, and I didn't know anything I would do. Questa canzone. Whatever. Artista. Love Transistor. Bravo. Oh, Cosa stiamo ascoltando, fratello? Noise of Love. Titolo? The Only One. I can feel it, my heart beating in me tonight. You'll be only one, you are my baby. I can feel it, my heart beating in me tonight. You'll be only one. Allora ti presento una canzoncina, una favola. Artista Gigi D'Agostino. E mica non ci vedo. Titolo? Che tu dici? Sto cazzo. Fette spiego. Titolo? Semplicemente. We'll be right back. Manovella. Artista? È inutile dirlo, proprio non giocamo.com. Lento, violento man. Seratina alle ore 22:30, Gigi D'Agostino alla discoteca 24.000 baci in via dei Cappuccini numero 8. Allora, ecco questo qua, questo brano, questo come si intitola? Fantasia. Artista? Entropia sonora. Roba di cattedra. Domenica 16 aprile. E Pasqua. Pasqua. Disco a Rimini. Tutti a Rimini, regà. Discoteca Altro Mondo. Discoteca Altro Mondo. Alle 22:30 chi suona? Gigi D'Agostino. Perfetto. Dopo? DJ Provenzano. E dopo ancora? Luca Nois. E dopo ancora? Daniele Mondello. Ci vediamo lì. Metteci una torta. Love. Il titolo invece di questa Bagar artista Magna Romagna etichetta. Ma che etichetta, niente, questo è il nome di Magna Romagna. Sono due che provano a fare gli artisti, non c'è verso. Questo brano senza voci, tutto instrumental mix, come si chiama? C'è il cielo. Artista? Federico Romanzi. Artista. Questo è e no, perché stavo pensando a questo. È il brano di un amico. È la canzone di Federico. Giusto. Eh? Questo brano, questo,